Se temos que ter mulher, avvicinare così? Ok. Dicevo che purtroppo, insomma, la sfortuna regna un po' sovrana e scenderà le mano anche in questo caso, visto che porta sempre sfortuna, come mi dirò. Insomma, comunque Emma oggi hanno messo all'improvviso il turno di presidenza al Senato e non si è potuta rifiutare, anche perché al Senato oggi ci andava il presidente Napolitano, che lei mi ha scritto che aspettava alle 7:10 che uscisse Napolitano e ci raggiungeva. Insomma, logistici, speriamo che al massimo per le 8 possa essere qui, però siccome voi avete già avuto tanta pazienza nell'aspettare, direi che noi comunque cominciamo, no? Certamente sì, buonasera a tutti. Dunque, approfittiamo della presentazione del libro di Livia anche per inaugurare un ciclo di incontri che faremo un po' sul un percorso che ci possa portare anche ad un nuovo pensiero. Io all'inizio sinceramente ero un po' spaventato dall'idea di leggere, ho assistito alla presentazione che Livia ha fatto alla provincia di Roma, c'era lei, c'era molta, e insomma ho assistito a questa presentazione e ero un po' spaventato all'idea di leggere un testo che è un po' lontano dalla mia preparazione, e quindi ero un po' titubante. Invece ho trovato questo libro peraltro molto scorrevole, ma soprattutto che arricchisce di alcuni momenti che veramente per me non erano conosciuti. Innanzitutto, non so, mi vengono in mente tante cose, a partire dai primi capitoli, quando si parla degli uomini preistorici. Io ho appreso con grande meraviglia del fatto che per esempio vi fosse un certo distacco, cioè non riuscivano a mettere in relazione il rapporto sessuale con la gravidanza, e non ci avevo mai pensato a tutta questa cosa, perché normalmente per noi tutto quello che è ormai un fatto assodato, è un fatto comunque entrato nell'uso comune del pensare, invece mi ha un po' fatto riflettere su una cosa fondamentale, che era quella di una cosa perfettamente inutile per l'uomo preistorico, no? Le cose utili erano mangiare, bere, dormire, cacciare molto probabilmente, e il fatto dell'atto sessuale sganciato dall'effetto della riproduzione, insomma, vuol dire che insomma quell'atto era un di più, un qualche cosa che si faceva anche senza avere un obiettivo ben preciso. E questo, devo dire, appunto, ho fatto queste piccole scoperte, ma la scoperta più interessante è stata quella degli ultimi capitoli, perché negli ultimi capitoli del libro ho appreso delle cose che veramente per me erano sconosciute, quella parte relativa all'inconscio e al dormire e al vegliare e comunque collegare il pensiero ad un momento ben preciso della nostra vita. Ecco, tutto questo è un po' sconvolgente perché sovverte tutta quella che è la normale preparazione, la normale dottrina che ci viene propinata ogni piasso spinto relativa all'impostazione freudiana che poi che è quella che va per la maggiore anche quando si studia filosofia, quando si studia al liceo, quando si studia un po' di sociologia all'università. E devo dire che il tentare di comprendere a fondo questo, cioè dovevo rileggere più volte il passo perché sinceramente era un po' cambiare completamente il punto di vista dei momenti. Quindi lì quando ho percepito che il momento in cui il nostro cervello diventa attivo, il momento in cui il nostro diventiamo essere, è il momento della nascita, dell'uscita dall'utero materno, ma soprattutto il momento in cui la retina viene colpita dalla luce. È in quel momento che si attiva il cervello. Abbiamo un ospite, in quel momento si attiva il cervello e in quel momento iniziamo a pensare. Sì, probabilmente. E in quel momento iniziamo a pensare. Ecco, considerate che tutto questo va un po' al di fuori dei canoni del normale sentire, del normale pensare, no? Perché anni e anni, anche le nostre, semplicemente se uno basta che pensa alla legge sull'aborto e comincia a pensare i 3 mesi entro i quali va praticato l'aborto e comincia a pensare invece che la vita effettivamente nasce nel momento della fuoriuscita dall'utero, quindi è un po' sovvertire quelle che sono le leggi che abbiamo e soprattutto sovvertire quello che è il comune sentire. Quindi devo dire che questa cosa mi ha molto colpito. L'altra cosa che mi ha colpito è quella relativa ai sogni che possono poi quella manifestazione che mentre Freud la narrava come una manifestazione di quell'ess che era inconoscibile, diventano per Livia invece, per Livia o per Massimo Fagioli, diventano quel momento in cui il pensiero è come quando era nei primi anni della nostra vita. Forse è un po' difficile, forse ce lo spiegherà meglio Livia. Io l'ho capito così. Nel momento in cui cioè noi dormiamo pensiamo come pensavamo nei nostri primi anni di vita, prima che si manifesti il linguaggio, prima che si manifesti tutte quelle percezioni che noi facciamo tesoro di quelle percezioni sensoriali che poi ci permettono di esprimerci. E lì riflettendoci ho pensato, ma alla fine gliel'ho chiesto pure a lei, no? Gli ho detto, ma scusa, ma se noi dormiamo per circa 6 ore, io dormo poco, 6 ore al giorno, quindi che sono più o meno un quarto della mia giornata, no? Una giornata di 24 ore, e allora ho detto, dormiamo anche per un quarto della nostra vita. E mi viene da pensare che forse quel momento in cui noi abbiamo quei momenti in cui sogniamo è un momento indispensabile, perché altrimenti è indispensabile alla vita, ma è indispensabile perché è un quarto della nostra vita, quindi un momento significativo. Cioè gente che dorme 12 ore, quelli dormono la metà della loro esistenza, la passano dormendo, quindi alla fine non si sa più se è più importante il momento in cui dormiamo e quindi sogniamo e il nostro inconscio veramente si manifesta, o quando siamo vivi. Viene da pensare addirittura che essere svegli forse sia un accessorio del... Sì, ah, sì, quell'altra, l'altra osservazione che mi era venuta in mente è che alla fine, non essendo un bisogno del corpo dormire, perché se io posso riposare anche 6 ore ma stare sveglio e non capire più nulla quando mi alzo, quindi è molto probabile che è indispensabile su quelle 6 ore di sonno, quelle 6 ore in cui io vivo, quei momenti probabilmente sono quelli indispensabili alla vita, mentre sono molto meno indispensabili e molto meno utili quelle 6 ore in cui io vivo la vita di tutti i giorni. Quindi alla fine non si sa più bene, ripeto, per questo mi ha sconcertato, ho detto ma allora non è che alla fine è un accessorio quello, il periodo in cui siamo svegli, è indispensabile il periodo in cui dormiamo. Devo dire che molto difficile dare delle risposte nette e delle risposte significative a questo tipo di domande, perché immagino che sia Fagioli, che Livia, che tanti altri abbiano studiato per anni su questi fenomeni, però perché è importante anche parlare di questo e presentare questi libri e parlare di questo in questi momenti, anche così davanti a un pubblico che probabilmente non è fatto di soli psicologi, psichiatri o filosofi studenti o studiosi di filosofia, ma perché far capire che comunque c'è un qualcosa che va al di là un po' del nostro semplice conoscere, del nostro semplice, di quello che ci viene insegnato giornalmente, e credo che sia una cosa fondamentale. E su questo cioè, ci sarà da riflettere molto, e io spero che Livia continui i suoi studi e ci dedichi altri momenti come questo, perché veramente, veramente arricchiscono la persona. Io non vorrei andare oltre, perché altrimenti corro il rischio anche di dire delle cose poco precise, mentre invece volevo lasciare la parola a Giulio, che se ci arrivo. Mi sa che mi metto vicino a te perché non ci arrivo. Poi se arriva Emma ci spostiamo. No, innanzitutto grazie a voi di essere qui. Vedere tante persone ad un incontro, alla presentazione di un libro che parla di argomenti apparentemente, o diciamo nella vulgata generale, così lontani dalla vita quotidiana, è una bella scoperta. Vuol dire che ancora le menti non si sono del tutto spente nel nostro paese, nonostante vari tentativi di far questo. E dicevo apparentemente argomenti lontani dalla vita quotidiana, in realtà i miei complimenti e il mio ringraziamento poi va a te per aver scritto questo libro, aver dato vita a questa ricerca, che invece ha tanto a che fare con le scelte che compiamo ogni giorno, con le domande che ognuno di noi si fa di se stesso e di se stesso rispetto agli altri. Io tento, diciamo, di così dare una mia interpretazione anche di ciò, del tuo lavoro, e poi volevo farti anche qualche domanda. Innanzitutto voglio dire, cercare di spiegare anch'io, come ha fatto Gianluca, in breve e nei termini più semplici possibili, lo sforzo di questo lavoro. La società, così come siamo abituati ad averla conosciuta, così come è impostata, frutto del cataclisma delle due guerre mondiali, frutto dell'incontro scontro tra culture e popoli diversi, ha dato vita a quello che è la nostra società odierna, il nostro modo di vivere, la quale porta con sé delle questioni non risolte, sia per quanto riguarda la ricerca dell'identità umana in quanto individui, sia per quanto riguarda la ricerca di un'identità collettiva e del confronto delle identità collettive, dei gruppi sociali. Questo perché dalla nascita delle religioni monoteiste, le grandi religioni, alla nascita della filosofia che prendiamo, diciamo, come punto di partenza dei presocratici, della filosofia greca, abbiamo avuto uno sviluppo in Occidente di un pensiero logico che è diventato dominante e che ha definito la nostra struttura logica, la nostra identità personale e le nostre identità collettive. Questo porta però con sé un limite originario, ed è il limite di, come dire, di essere pensieri più che di incontro, di scontro. Emma Bonino. Salutiamo Emma Bonino. Abbiamo iniziato adesso a ragionare appena appena. Dicevo quindi che l'impostazione logica che ha sotteso lo sviluppo della civiltà occidentale porta in sé un vizio, tra virgolette, nel senso che è un'impostazione logica più di scontro che di incontro, che tende a risolvere i conflitti inglobando la diversità più che ponendosi in modo dialogico con la diversità. Questa quindi, diciamo, impostazione è poi culminata, a nostro modo di vedere, nella tragedia delle due grandi guerre mondiali, dove l'avanzamento tecnico-scientifico, ai noi, soprattutto, diciamo, nella capacità militare e della potenza delle armi, e il tipo di impostazione logica occidentale hanno portato a fenomeni presi in esame, tra l'altro anche quali il fatto del nazismo, molto devianti. Allora, cercare il dibattito oggi nell'accademia filosofica da un lato, nella scienza dall'altro, ma anche nell'antropologia e nella sociologia, è proprio questo il dibattito attuale, quello di cercare di rianalizzare il cammino percorso, sia in termini scientifici che religiosi che filosofici, della civiltà occidentale che ci ha portato fino ad oggi, e andare a capire se possono esserci diciamo, dei presupposti, dei punti di partenza diversi rispetto a quelli che sono diventati dei postulati che hanno portato a queste conseguenze. E la ricerca appunto pre-religiosa, intendendo appunto le tre religioni monoteiste, e pre-filosofica, intendendo la nascita della filosofia con i presocratici in Grecia, è molto interessante. Credo che vada sviluppata, lo dico, sia dal punto di vista di chi in qualche modo ha frequentato l'Accademia, insomma, la facoltà di filosofia di Villa Mirafiori, quindi della Sapienza di Roma, e sia dal punto di vista di una persona che è impegnata nell'amministrazione pubblica, quindi in consiglio comunale a Roma. Questo libro credo sia interessante molto per l'attualità, perché oggi la grande domanda, sia a livello internazionale, qui Emma poi avrà modo di spiegarci meglio le dinamiche, cioè di cercare di capire quale può essere un'impostazione da mettere in campo nei rapporti tra gli stati, nei rapporti, nella convivenza tra i popoli, che oggi, anche dopo il prestito alla Grecia, torna all'attualità, il modo di convivere della comunità europea in sé e rispetto agli altri, e che è di grande attualità quando si sollevano i temi delle riforme della Costituzione italiana, quindi dell'impostazione dell'architettura istituzionale dello Stato e anche del contenuto sociale della Costituzione. È il tema della risoluzione dei conflitti in senso pacifico, quindi del rapporto tra me e l'altro con il diverso da sé inteso come persona e gruppo, che torna prepotentemente, protagonista questo tema. Quale tipo di confronto? Ed è anche il tema appunto della politica, come abbiamo visto, e anche però dello sviluppo del pensiero, della conoscenza. Io credo che cercare una chiave che coniughi le scelte, anche politiche, ai pensieri, sviluppati dalla ricerca intellettuale, scientifica dell'uomo, sia necessario, importante. Oggi questo, e chiudo, vedo che sta un po' scomparendo. Il fatto, mi sembra appunto che siamo ancora al culmine del pensiero logico occidentale, perché l'impostazione anche che si dà di non ragionare su queste cose, come se la ricerca scientifica dovesse essere qualcosa di diverso, come se la conoscenza dovesse essere qualcosa di diverso dalla saggezza, per utilizzare questa conoscenza, questa scissione che si prende anche in esame nel libro. Ecco, credo questo sia molto pericoloso. Io credo invece che oggi bisogna riuscire a coniugare lo sviluppo tecnologico con la capacità e il pensiero di come usare lo sviluppo tecnologico, che bisogna ripensare le origini della civiltà occidentale, sia in senso religioso che in senso filosofico e quindi poi politico, per poter cercare questo punto di incontro. Quindi ecco, e credo che questo sia un tema che meriti di essere sviluppato in grande profondità, che si possa su questo fare anche un ragionamento, anzi che sia necessario un ragionamento interdisciplinare tra psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, politica. E credo che questo sia anche oggi il senso più generale della cultura che debba tornare ad essere protagonista. Lo immagino nella città di Roma, una città che da 20 anni è interessata fortemente ad esempio al fenomeno dell'immigrazione, che a differenza delle altre grandi capitali europee che hanno avuto magari più anni per poter arrivare ad una sintesi rispetto a questo problema, si trova in un impasse, in una difficoltà. Ecco, anche questo non è nient'altro che cercare di ragionare sul rapporto del diverso da sé e dall'altro da sé, che va sviluppato. Mi riservo, finisco, vorrei lasciare la parola ad Emma, e poi però vorrei che, se fosse possibile, si aprisse anche un dibattito in cui tu puoi rispondere a domande fatte dal pubblico e anche da noi, che ne avremmo tante. Grazie. Grazie mille. Intanto mi scuso per il ritardo, non è mio solito, anzi mi prendono sempre tutti in giro perché sono peggio di un orologio svizzero, anzi con tendenza ad anticipare, c'ho l'ansia da ritardo, ma credo me l'abbiano trasmesso i miei genitori, erano sabaudi, per cui e così sono rimasta, ma probabilmente va bene. E il problema è solo che siamo in un momento, cioè non so perché, ma c'è un'emergenza dietro l'altra, per cui avevo impegni al Senato. E la seconda, e quindi mi scuso, insomma. Poi, però vedete, sono bardata, linda e pitta da ruolo istituzionale. Volevo dire tre cose prima di iniziare un dibattito con voi. Questo è un libro molto impegnativo. E come tale probabilmente molto utile. Non è un libro che io leggerei in spiaggia, per esempio, perché è un libro molto impegnativo. È un libro che si legge non tutto d'un fiato, se uno lo vuole assimilare, insomma. Ed è un libro che io ho letto in questi ultimi viaggi, mi è stato compagno, è un libro mille miglia, insomma, mi è stato compagno in questi ultimi lunghi viaggi di quest'ultima settimana. Ma è un libro molto utile almeno per una persona come me che pensa, che ha la passione della politica, come è noto, non mi pare un segreto, ma che è anche profondamente convinta che non esiste politica senza cultura. Altrimenti la chiamiamo buona amministrazione, consiglio d'amministrazione, chiamatela come volete, c'è molti altri modi, ma non esiste un modo, secondo me, un modo di vivere o di attuare la politica se non in base a dei filoni culturali, cioè a una cultura che uno sceglie e che a partire dalla quale guarda il mondo come punti di riferimento. Che è anche mutevole, perché una delle capacità è quello di mettersi in discussione, quello Sciascia disse un giorno, contraddissi e mi contraddico, per esempio. Quindi e per me quindi è utile non tanto nel suo excursus storico, che pure ti insegna molte cose, ma nella parte finale, perché è quella a me più omogenea, no? Quando al l'ultimo capitolo dice nati uguali per divenire diversi, per esempio, e che ti porta o mi porta ad avere poi un certo tipo di analisi di quello che succede al mondo proprio in base a dei filoni scelti, evidentemente. Per esempio, le varie citazioni che tu fai di Hannah Arendt, e che sono esattamente quelle che a me in qualche modo sono più familiari, non le uniche, ma quelle che sono più familiari. E l'idea evidente che viene fuori dell'uso spesso utilizzati come se fossero dei sinonimi, invece sono cose profondamente diverse, tra diversità, differenza e disuguaglianza, no? Anzi, sono conseguenti sostanzialmente nella percezione. Essere diverso uguale essere differente, che già è un'accezione un po' più peggiorativo che la pura diversità, e che poi porta, se non si sta attenti, alla disuguaglianza. E se voi percorrete una serie di fenomeni, tu citavi l'immigrazione, ma potremmo citarne altri, questa tre tappe, riconoscere che si è diversi, se non si sta attenti si arriva immediatamente a sentirsi differenti, che è un'altra cosa, indi a praticare nei comportamenti individuali e in politica, per esempio, la diseguaglianza. E quindi non è il processo, come dire, di superare le disuguaglianze. In questo periodo, nel nostro paese o nel nostro mondo, anzi, c'è il dato di codificare le diseguaglianze, e anzi scriverle in leggi, contro leggi, accidenti vari, no? Che è una codificazione della diseguaglianza che nasce da una presa d'atto di diversità. Compito di una, secondo me, di una politica che abbia senso è esattamente il percorso opposto, cioè quello cioè di affermare che diversità deve avere invece il senso della pari opportunità, perlomeno, e ha come corollario, per quanto mi riguarda, che io ho un'allergia totale alla parola tolleranza, che invece, insomma, viene sbandierata tutte le volte come se fosse un valore positivo. Io appena la sento mi viene la varicella, perché se già usiamo la parola tolleranza, allora abbiamo già capito o codificato che c'è qualcuno che, tra virgolette, è così buono che tollera l'altro, che di fatto, poiché lo tollera, è sicuramente cattivo, perché se no... Allora, altro è invece il concetto del rispetto, perché il rispetto è quello che sottintende una concezione di diversità paritaria. La parola tolleranza, così come si è venuta significando, non è che mi irrita, la trovo proprio diversa dalla concezione che io ho. Il mio problema non è né di tollerare né di essere tollerati, perché questo implica una definizione di valore. Il tollerante è, tra virgolette, il buono e nel giusto, che tollera qualcuno che è obiettivamente più cattivo e nell'ingiusto, se no non lo tollererebbe, non avrebbe bisogno di tollerarlo, ecco. Io non tollero te, non so se è chiaro il concetto, chiaro? Però si tollera, che ne so, uno che è di fede musulmano, allora si predica la tolleranza, oppure no, la questione è di avere la capacità, e quindi poi nel mio campo, a cui io faccio riferimento perché è l'unico di cui conosco qualcosa, che è nel campo politico, porta a trasposizioni legislative che, per quanto mi riguarda, cerco di spingere sempre più possibile nel segno del rispetto e non nel segno della tolleranza. Infine, proprio per iniziare un discorso tra di voi, c'è un passaggio, no, tra come faccio a considerare certamente diverso ma anche uguale un uomo e una donna, che obiettivamente sono diversi, ma poi sono, e che è un concetto, insomma, vero come dilemma, che io lascio ovviamente a chi si occupa di queste cose. La soluzione in termini politici invece è quello della parità. Voi mi scuserete se ho sempre questo riflesso condizionato di buttarla in politica, come si dice, ma poiché è l'unica cosa di cui credo di conoscere tre o quattro cose, mi viene come riflesso condizionato. E credo che è quello appunto della parità, dove essere differenti, come è evidente, non vuol dire essere inferiori, perché spesso invece si pensa, ci si comporta come se essere diverso volesse dire essere inferiore, sostanzialmente. Per cui, per esempio, io sono una che non ama le quote, che non ama la protezione, che vuole il rispetto, che vuole apprezzamento del merito, che non mi va di accettare, come dire, le scorciatoie apparentemente più semplici, appunto, che ne so, della protezione, della... A me viene sempre da dire: amatemi di meno, rispettatemi di più, anzi fatevi il favore che non mi amate per niente, che non fa niente, non importa, non è che... Non è fondamentale, insomma, il rispetto è fondamentale, poi gli affetti e gli amori me li trovo in altri ambiti, però il rispetto è fondamentale. E questo è un grande problema che, a mio avviso, per esempio, nel nostro paese, per quanto riguarda la differenza, diversità uomo-donna, ha ormai assunto dei connotati patetici. Dico bene patetici, non so usare un'altra parola, e spero che verrà il giorno in cui veramente noi tutte diremo basta e ricominciamo un altro cammino. Perché la situazione è appunto che questa diversità in realtà è stata codificata per molti millenni, ma torna adesso ad essere codificata come: voi siete diverse, quindi dovete avere certi ruoli ma non altri, certe possibilità ma non altre. Poi noi vi amiamo tantissimo, tant'è che vi facciamo un sacco di leggi di protezione, che così vi ingabbiamo pure meglio. E avanti di questo passo, se voi guardate, scusate se mi appassiono, ma la situazione, non so, della diversità femminile italiana, da tutti i punti di vista: accesso al mercato del lavoro, uguali stipendi, uguale carriere, cioè, la situazione è patetica, credo siamo gli ultimi in Europa in base a tutti i criteri possibili e immaginabili, però siamo santificate, e perché il ruolo della mamma, e perché la famiglia, poi si dice famiglia e alla fine sempre la donna è, perché questo welfare all'italiana, per cui le attività di cura dei bambini, degli anziani malati, e siccome si sta invecchiando molto di più, poi alla fine c'hai appunto più anziani che poi si ammalano pure, eccetera, questa è tutta una meraviglia perché se ne occupa la famiglia. Poi gratti un po' e dice: aspetta un attimo, cerchiamo di declinare la famiglia, chi sarebbe cotesta famiglia? Tu vai a declinare e cotesta famiglia è una, normalmente, la donna di questa magnifica e magnificata cosa. Per cui noi, per esempio, è sicuro che nasciamo uguali e cresciamo diverse. Come ho detto, inventando un gruppetto di scatenate come me, nasciamo pari e cresciamo dispare. Non ci sono santi, voi andate a vedere in qualunque settore. Per cui, pari e dispare, differenti, diversi, eccetera. Questo è un grande, grandissimo tema che mi è piaciuto riguardare anche nell'antichità, anche se io sono meno sensibile, diciamo, a richiami, o li utilizzo come dato di fondo, come dato che mi porta poi a vedere il mondo in un certo tipo e quindi proporre certe soluzioni piuttosto che altre. Ma credo che questo è un grande tema per noi nel nostro paese, e infine lo è il libro lo accenna molto bene, alla questione del mondo d'oggi e quindi a tutta la questione globalizzazione eccetera eccetera, che è la parte diciamo più d'attualità, ma che ha le sue radici in antichi e sviscerati i temi. E però è un libro che aiuta, perché aiuta a capire per esempio che spesso l'identità viene utilizzata a fini, o il discorso sull'identità, a fini non nobilissimi. Come voi sapete, ad esempio, in Francia poco tempo fa il presidente Sarkozy non ha avuto molta fortuna, ma insomma ha molto cercato di attivare tutto un dibattito non sull'identità umana, ma sull'identità francese. Il quesito essendo chi è francese? E il dibattito è stato una sciagura totale, cioè un disastro universale, perché come se uno chiedesse giustamente cos'è l'identità italiana, chi è un italiano, ci riconosciamo da che cosa? Dalla lingua, fenomeno molto recente francamente, l'unificazione linguistica nel nostro paese. Dalla cucina non cominciamo, perché sennò dal caffè può darsi, da che cosa? E infatti, e poi andiamo ancora più su, no? L'identità europea, dice i turchi non possono entrare in Europa perché l'identità europea non consente. Allora tu fai la domanda e dici, scusate, ma qualcuno mi spiega qual è l'identità europea? Chi è? Che cos'è? Io ho una risposta, ma vorrei sentire quella dei soliti che mi dicono l'adesione della Turchia no, perché l'identità europea. Allora tu fai la domanda, ma sta identità europea, ma mi spiegate che cos'è? E hai le risposte sempre più disparate. È chiaro che l'identità europea non è una comunanza linguistica, di tutta evidenza, non è una comunanza di culture, di tutta evidenza. Il Mediterraneo ha una cultura andalusa, islamica, una contaminazione che i paesi nordici non hanno, non è radici storiche comuni, ragazzi si sono fatti la guerra fino all'altro ieri che ci scannavamo mica da ridere, a partire dalle guerre dell'impero romano fino appunto alla seconda guerra mondiale, passando per un genocidio, insomma, non dico sciocchezzuole francamente. Allora, e io credo che l'identità europea consiste, ed è oggi, il credere e pensare che il superamento dei nazionalismi e una convivenza basata su democrazia e Stato di diritto è la cosa che ci tiene insieme. Ma questa io vedo come identità europea, e per questo altri paesi che abbiano la stessa gli stessi punti fermi o comunque si avvino ad averlo sono europei quanto noi, tra l'altro lo è Cipro che sta ancora più in là perché la Turchia no, ma insomma non importa. Ma se questo, se siamo d'accordo su questo, perché altrimenti mettersi a discutere di che cos'è l'identità europea uno riceve le risposte più incredibili e che non hanno senso. Ma lo sforzo suo è stato quello di farci riflettere sull'identità umana, non a caso il titolo non è legato diciamo ad una parte geografica o una parte politica, ma va più a fondo di questo, e proprio per questo è utile per capire come l'identità umana poi si deve coniugare ovviamente con una qualche attuazione politica di organizzazione del perché stiamo insieme. Per questo è utile, perché mi ha in qualche modo confermato che l'identità non è la lingua, l'identità non è solo il passato, possibilmente remoto, l'identità non è come quello che viene a volte usato o invocato per tirare su muri, l'identità è un'altra cosa, no? È l'evoluzione stessa dell'essere umano, e questo ci aiuta perché nel mondo d'oggi noi saremo sempre di più alla ricerca di una identità globale, appunto di un'identità umana. È come se al ritorno dopo 2000 anni di un peregrinare storico fossimo tornati al punto vero dell'identità umana, in base alla quale organizzare anche la coesistenza civile delle persone, la coesistenza, il modo di stare insieme, le regole che si rispettano, ma a partire dal fatto che non stiamo parlando dell'identità francese, di quella italiana, di quella algerina, di quella malesiana, stiamo parlando di identità umana. Grazie. Prima di dare la parola a Livia Profeti, l'autrice del libro, volevo ringraziare tutte le persone che sono presenti, in particolare anche la libreria Rinascita, soprattutto vedo Ilaria Monaccorsi, la direttrice, preferirei dire direttore e direttrice, mi fa sempre pensare a quella della scuola, alle dispari. Di Left vedo lo scrittore Patrignani, vedo il consigliere Di Giovanni che si occupa delle politiche culturali del 17° municipio, ringrazio insomma tutti, anche quelli di cui mi sono dimenticato. Dunque, allora, anch'io devo fare parecchi ringraziamenti. Primo devo ringraziare Gianluca che ha avuto l'idea e ha organizzato questo incontro, quindi in primo luogo ringrazio lui. Poi Giulio che ha accettato così entusiasticamente di parteciparmi, ma loro due non si offenderanno da gentiluomini se io ringrazio soprattutto Emma, ma anche Emma Tarr, come noi l'abbiamo soprannominata in campagna elettorale, perché no, era bellissimo quel video, Emma. No, non voglio ricordare. Ecco, sì. A Roma abbiamo vinto, a Roma abbiamo stravinto, anzi un applauso per Emma che ha vinto a Roma. Ecco, bene, benissimo, questo era quello che volevo sentire, esattamente quello che volevo sentire. Insomma, Emma Tarr, nonostante tutti i suoi impegni, è qui e io ti sono veramente, veramente molto grata e molto, anche, soprattutto, è un grande piacere. Ora, io so che molti di voi sono qui per ascoltare anche loro il mio libro, magari lo leggete, e quindi cercherò di non parlare a lungo, però vi devo assolutamente parlare di una ricerca che mi è partita proprio a partire da questa presentazione. Perché di fatto io mi trovo in questo luogo, in questa libreria che ha un nome storico per la sinistra, con due esponenti del partito che è erede del Partito Comunista e con un altro esponente di un altro partito altrettanto storico che più limpidamente di qualsiasi altro ha rappresentato negli ultimi decenni la coscienza laica del nostro Stato. Quindi insomma, sono tre esponenti politici. In teoria io sarei un intellettuale, anche se si comprende, devo dire, l'interesse, insomma, non certo erudito della mia ricerca. Però, insomma, questa situazione mi ha fatto pensare, va bene, il mio libro parla di identità umana, cosa c'entra l'identità umana con la politica più profondamente? E spontaneamente uno si risponde tanto, perché la politica, come appunto avete accennato, si occupa del modo di convivere insieme degli esseri umani. Allora mi sono chiesta, da persona storicamente di sinistra, allora qual è l'identità umana della sinistra attualmente? E che c'entra questo con quello che viene tanto paventato come perdita di questa identità? Sono almeno due decenni che ci sentiamo ripetere che non c'è più differenza tra destra e sinistra, che ormai saremmo solamente tutti dei democratici, ai limiti, amministratori di sinistra un po' più onesti, ma insomma alla fine non c'è più questa differenza. E la persona di sinistra si ribella a questa cosa, perché nel cuor suo dice, vabbè, comunismo non c'è più, quello non c'è più, senz'altro, però io sempre di sinistra mi sento, sempre diversa da qualcuno di destra mi sento. Allora, questa cosa qui, ho cominciato a studiare, che faccio in genere, scusate, studio, e ho cominciato a vedermi un po' di testi di questi che si sono occupati, diciamo, di questa differenza. Tra i vari ne ho trovato uno di Carlo Galli, politologo, da cui ho tratto degli spunti molto interessanti. Allora, il testo si intitola Perché ancora destra e sinistra? E allora, cerco un attimino di dirvi quello, perché poi mi è scatenato una serie di pensieri, per cui alla fine mi è sembrato di riuscire a giustificare perché questo nuovo pensiero di cui parlava Gianluca all'inizio, perché questa ricerca su una nuova identità umana che superi le appartenenze, eccetera, sia invece molto importante per la politica. In particolare per la politica di sinistra, che adesso forse più, dopo il discorso che vi farò, viene ad essere più strettamente legata proprio all'idea di democrazia e di attuazione e di sviluppo storico della democrazia, cioè del modo di convivere insieme di persone che sostanzialmente si ritengono uguali a partire, superando la strattezza dell'illuminismo che ci considerava tutti uguali ed aboliva in questo senso la diversità. Però cercherò di essere sintetica. Allora, Carlo Galli evidenzia che l'opposizione destra-sinistra è connaturata alla nascita della modernità, perché la modernità, quindi ci collochiamo grosso modo intorno al 1600, l'uscita dall'umanesimo religioso, scusa Gianluca, non so le spalle ma è difficile, l'uscita dall'umanesimo religioso e l'entrata nell'umanesimo, diciamo così, razionale e razionalistico, che metteva laddove c'era al centro, diciamo, mette l'umanesimo razionalistico, mette al centro l'uomo. Nasce con questa la persona, sì, diciamo, è molto schematico il discorso di Galli, però devo dire è volutamente schematico, perché vuole andare a cercare il nucleo, perché di sinistra ce ne stanno 200.000, di destra ce ne stanno altrettante 200.000, spesso si sovrappongono. Allora lui cerca il nucleo per sapere se questa differenza è ancora valida. Lui sostiene di sì, e probabilissimamente è vero, però con un'accezione di sinistra che a questo punto diventa diversa da quelle che abbiamo. Allora, dice che così nasce la politica moderna, perché prima l'ordine, la giustizia rispetto all'ingiustizia, la pace rispetto alla guerra, diciamo l'ordine, nell'umanesimo religioso era trascendente, cioè succedeva quello che la divina provvidenza voleva che succedesse. Con la, diciamo, secolarizzazione, col processo di secolarizzazione, ovvero sia di affrancamento dai dogmi religiosi, questo ordine passa nelle mani degli esseri umani. Condividono destra e sinistra, come pensiero di massima, questo passaggio, diciamo, della modernità dall'ordine che trascendente all'ordine attuato dagli esseri umani attraverso appunto la politica. Questa è la loro radice comune nella modernità. Però cos'è differente? È il modo in cui si realizza questo ordine, e questo modo fa capo a una diversa rappresentazione della realtà ed una diversa rappresentazione in particolare della realtà umana. Allora, il topos, diciamo, tutte le sinistre si sono rifatte storicamente all'illuminismo razionalista. L'idea, diciamo, di base della prendilo schematicamente, però prima fammi finire, vedrai che ti ci riconosci, perché perlomeno io mi ci sono riconosciuta, nel senso che penso che sia spontaneamente qualcosa che molti. Diciamo, cos'è il pensiero cardine? No, lasciamo perdere l'illuminismo, ma comunque sull'identità umana razionale secolarizzata, su questo ci siamo, no? Allora, il topos, diciamo, della sinistra, l'illuminismo, il razionalismo riprende questa identità umana come ragione della filosofia greca, per l'appunto. Non dà una nuova determinazione precisa dell'uomo, però è come se il pensiero di sinistra sta sempre su, lui lo definisce una sorta di a priori, una logica primaria, che è quella di pensare che nella ragione ci sia un qualcosa di originariamente buono. E il pensiero di sinistra è quello che punta a questo originariamente uomo su una base di un altrettanto a priori, che è quello di pari dignità degli esseri umani tra di loro, e mira ad attuare per mezzo della politica lo sviluppo di questo originariamente buono. Cioè, il topos della politica di sinistra è quello delle politiche delle sinistre, diciamo, del pensiero delle sinistre, è quello di puntare a questa cosa che può essere sviluppata, e il compito della politica è quello di garantire il libero sviluppo delle varie diversità umane, diciamo, delle varie volontà umane, perché fondamentalmente basate su una pari dignità, E, dicevo, il compito della politica è garantire questo libero sviluppo, quindi c'è questa idea di seme originario di bene che la politica deve garantire che si sviluppi. Questo è l'ordine democratico, diciamo, da cui nasce la democrazia, insomma, ed è l'ordine del pensiero genericamente di sinistra. Il pensiero di destra sempre parte in questo passaggio, sempre pensa che l'ordine lo deve stabilire l'uomo, però non parte da questo seme originario di bene, ma prende, mette in primo piano, in questa opposizione ordine-disordine che prima era attribuita alla Divina Provvidenza, questa opposizione ordine-disordine, mentre la sinistra mette l'accento su un ordine possibile da sviluppare attraverso la politica, la sinistra mette sempre in primo piano il disordine. Scusa, la destra mette sempre in primo piano il disordine. È centrale per la destra questo disordine. Io ve la dico questa con le parole di Galli stesso, perché mi sembrano le più... Allora, secondo lui, questo roccioso e intransigente, diciamo così, fondarsi del pensiero di destra su una politica garantita a turno da entità come Dio, natura, tradizione, nazione, razza e adesso anche destino, ma adesso anche mercato, cioè un mercato... si accompagna sempre al tema che è quello da cui si sprigiona l'energia politica della destra, dall'aggressione permanente all'ordine. L'idea di base del pensiero di destra è quindi quello di un'instabilità originaria e insanabile. Anche in questo caso bisogna garantire l'ordine, ma questo non si realizza con un progetto razionalistico, bensì come una lotta incessante contro chi minaccia questo ordine. Fondante per il pensiero di destra è quindi una sorta di accettazione di un male radicale, un male che non è visto solo come problema, questo è anche importante, ma anche come soluzione, come opportunità, cioè è la principale risorsa a disposizione della politica. Per la destra il disordine è la legge di natura da accettare, immutabile. Io francamente sono rimasta abbastanza colpita, perché possiamo forse, diciamo, è chiaro che è schematico, però possiamo comunque effettivamente riconoscerci tra cioè un pensiero, diciamo, democratico che possiamo legare a sinistra e un pensiero meno democratico e autoritario. Dici di no? La destra, non dico la nostra, in generale non è democratica. Cioè non capisco. No. Cioè non è questo, insomma. Stiamo sempre ragionando su... Il pensiero di base è quello destra-sinistra, esiste una destra e una sinistra. Cioè, questo è un discorso teorico, ovviamente. Galli non sto... Sì. Io sono persa. Volevo provare... Era solo il prologo. No, se mi fermavo qui, che avevo detto? No, anzi, è solo il prologo. Diciamo, allora, schematicamente, il passaggio dall'umanesimo religioso a quello razionalistico e secolarizzato della modernità sembra, come idea di base, chiamiamola idea di base, non chiamiamo insomma no, le realizzazioni pratiche di questo, ma come idea di base, come grandissime sovrapposizioni che ci sono, una sorta di differenza tra pensiero, diciamo così, di destra, pensiero grosso modo così di sinistra, che ereditano, a mio parere, insomma, come una sorta delle categorie religiose precedenti, quella tipo del bene, una tendenza verso il... no, una tendenza, cioè l'opposizione bene e male c'era, e è come se ereditassero, diciamo, come se una maggiore fiducia verso un bene possibile che si chiede realizzare attraverso la politica, oppure come accettazione di un male radicale, un'instabilità radicale. Che va combattuta, non è che la destra non la va combattuta, non è che le pensieri di destra non pensano che debba essere combattuta, ma il discorso è sostanzialmente quello, la differenza è come dire, l'accento, ma soprattutto secondo me una cosa fondamentale, più ancora che questo, l'idea di movimento che c'è, capito, in un pensiero che almeno così Galli analizza di sinistra, di un movimento, di una tendenza verso qualche cosa che comunque si può sviluppare, oppure come l'accettazione di uno stato di fatto immodificabile con cui bisogna eternamente lottare. Ovviamente, rispondo adesso ad Emma, questa storia della lotta contro il nemico è tipicamente un pensiero delle destre peggiori, non trovi? No? Vabbè, comunque, sì. Io capisco che ho toccato un testo, comunque io vi dico questo, cioè vi dico perché questo secondo me, adesso ammettendo che ovviamente non, a me sembra abbastanza, diciamo, come dire, quantomeno foriero di sviluppi questo pensiero, non proprio campato in aria, sicuramente con delle differenze sostanziali, però qual è il discorso? Il mio discorso era partito da c'è ancora una destra e una sinistra, perché sta in crisi questa identità di sinistra, che non è certo ormai più un'identità comunista, ma comunque c'è un qualche cosa che ti fa sentire diverso da una persona che si proclama di destra. Che attengono a tutt'altri motivi, eccetera, eccetera, questo dramma di che cosa sia l'identità di sinistra o socialista, io in Spagna non l'ho sentito proprio. Non l'ho sentito neanche in uno dei socialismi, diciamo, ancora più tradizionali e che affronta adesso uno dei drammi, spero ne venga fuori, che è il PASOK greco. Quindi stai parlando di destra e sinistra in Italia, perché se no... Ah, ecco. Io intanto colgo come positivo questo sforzo di cercare che hai fatto e che, come ho detto anche in quelle due parole che ho detto prima, questo libro è utile anche per cercare queste ragioni. No, storicamente dopo la c'è stato un momento, appunto, che si concretizza dal 1400 in poi, diciamo più verso il 1600, in cui storicamente viene fatta una rivoluzione contro un'impostazione del mondo che fino allora aveva dominato e che vedeva coincidere l'utilizzo della visione del mondo religiosa, questo però relativamente all'Europa occidentale, non per esempio negli altri stati, e viene messo in crisi invece dall'avvento di una nuova impostazione e organizzazione della società, che va di pari passo con lo sviluppo delle scienze e lo sviluppo anche delle tecniche della produzione. Inizia nel 600. Nel 600 la diversificazione che Galli schematizza è quella tra Hobbes, che parlava della società che nasce cattiva, l'uomo che nasce cattivo, e che è quindi la società, l'insieme degli egoismi e degli interessi che vanno tenuti a bada, e parla del famoso mostro, il Leviatano, in cui raffigura la società, e Rousseau, che invece parla dell'uomo buono, naturalmente, buono per natura. Lo schematismo di dire destra e sinistra, però, tra Hobbes e Rousseau è una forzatura, perché in realtà parliamo in entrambi i casi di un pensiero liberale nascente. Lo sviluppo successivo del pensiero di Rousseau nelle tesi di Marx, che pure vengono ripresi i pensieri di Rousseau solo da un punto di vista, è tutta un'altra cosa se si vuole far nascere la sinistra nel pensiero marxista. E tra l'altro anche quel pensiero, pensa come è strana la cosa, fa parte del totalitarismo hegeliano, e quindi ad esempio si differenzia da Kant. Quello era un tema che volevo lanciare rispetto al tuo libro, che cogli molto bene: il totalitarismo hegeliano, che è figlio suo malgrado della tradizione logica platonica e di tutta la storia della filosofia occidentale, è un qualcosa che chiude proprio il concetto di totalità rispetto a quello di infinito, è ad escludere, perché è vero che nella totalità conoscitiva di Hegel viene compreso il tutto, ma poi questo pensiero entra in crisi immediatamente dopo nel definire la totalità rispetto a qualcos'altro. In Kant, che è precedente storicamente, ma che in realtà già supera il pensiero di Hegel nel concetto di infinito. Questo Kant si ricollega, scusate la digressione, anche al discorso che tu facevi dell'iniziare a conoscere per immagini prima del linguaggio. Lo schema della conoscenza in Kant e della percezione trascendentale è nella terza critica, che è quella della capacità di giudizio, dove parla, quindi apre il filone dell'estetica letta secondo lui. Ma tornando al nostro discorso, di destra e di sinistra in questo senso non si può parlare. Si può parlare in Europa di uno sviluppo dopo la messa in crisi dei sistemi organizzativi della società medievale, di uno sviluppo tra piano piano, in embrione, un'organizzazione liberale e un'organizzazione socialdemocratica. La terza via è il punto dei nostri giorni, dove possono incontrarsi la mentalità liberale e quindi quella che ha dato vita, qui vado per accettate, agli stati di stampa anglosassone, con la mentalità socialdemocratica che è quella che ha dato vita agli stati di stampo continentale, dove per esempio è presente il fatto che lo Stato debba produrre attivamente i diritti della persona e invece nelle democrazie anglosassoni, ma sempre di democrazia si parla, invece lo Stato non deve produrre attivamente i diritti della persona, ma limitarsi a tutelarne le libertà. Allora, per questo Berlusconi dice di andare nel solco della democrazia, no? Perché in teoria punta a rifarsi a quel tema, molto in teoria. In realtà è lontano sia dall'impostazione liberale sia dall'impostazione socialdemocratica. Rawls, ultimamente è apparso un ultimo saggio di Rawls, in cui a fianco alle tre regole classiche del liberalismo ne individua altre due, che sono il sostrato culturale della rivoluzione sociale di Obama. Per esempio il tema della scuola pubblica, il tema del limite al mercato, eccetera. Io penso che oggi se si vuole fare una differenza tra destra e sinistra, è nell'innovazione, nella capacità di innovare, nella capacità di individuare i nuovi diritti e difenderli, nella capacità di coniugare lo sforzo della produzione di questi diritti da parte dello Stato con l'economia. E quindi direi che, almeno per me, la sinistra è nell'innovazione, nel progresso, in questo senso quindi nel futuro, e la destra è nella conservazione e quindi, se vuoi, anche nell'esclusione, perché quando conservi qualcosa non sei capace di coniugare il suo sviluppo nella diversità. Questo che hai detto adesso è perfetto rispetto al passaggio successivo, nel senso che, certo, Galli, il discorso è che non voglio mettere il cappello su Galli, lui fa addirittura risalire il pensiero di sinistra a prima che la sinistra storicamente determinata compaia sulla scena, proprio su questo aspetto che dici tu, cioè come se fosse un pensiero di attuazione della politica che punta allo sviluppo, perché c'ha una convinzione in qualche modo che nella società, negli esseri umani, c'è una pari dignità e un seme di bene da sviluppare. Io ho trovato che interessante il pensiero di Galli, perché per questo potremmo dire che il pensiero delle sinistre, che a questo punto è varissimo, è progressista, mentre invece è conservatore. Perché a me ha colpito il conservatore? Proprio perché parte come se la realtà invece fosse sempre la stessa, non è possibile svilupparla, cioè un'accettazione del reale che, per carità, la politica di destra cerca di controbattere, ma quest'idea, diciamo, di sviluppo, che è sostanzialmente un'idea di sviluppo umano, di progresso umano, secondo Galli, io ho trovato, però questo figura di, cioè, su voi potete, però voglio dire, lui sta molto sullo schematismo, proprio sta cercando, mi sembra un pensiero interessante. Ora, qual è il pensiero? Perché io sempre lo partire dall'idea, allora, perché in Italia soprattutto, e voi sapete sicuramente dire meglio di me, e meno male che mi ci hai confermato, ma d'altro canto lo stato dei partiti socialisti, diciamo, nel resto d'Europa, anche se a fasi alterne, mi sembra che vada comunque meglio, insomma, di della progressione italiana. Quindi perché allora almeno in Italia c'è questo dibattito di sparizione della sinistra? Non lo so, io ti dico sulla base, c'è, appunto, allora è questo che volevo dirvi, che sulla base di questo pensiero mi è venuto di pensare perché è collegata all'identità umana e perché c'è bisogno di fare un discorso sull'identità umana. Allora, cerco di andare più veloce e cerco di essere sintetica a questo punto. Il comunismo è andato in crisi, si dice che l'identità di sinistra si è persa perché si è perso il comunismo. E se ci fosse invece un altro motivo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, storicamente è successa un'altra cosa, non nella politica ma nella cultura, è successa nell'arte, è successa nella filosofia, è successa nella poesia e nella letteratura. L'arte astratta, in filosofi come Schopenhauer, come Nietzsche, nei poeti che hanno fatto, c'è stato tutto un movimento che, da cui è emerso che è entrata in crisi questa identità umana come ragione, cioè è come se il pensiero occidentale, cioè l'arte, la cultura avesse messo in crisi questa certezza della realtà umana, il velo di Maya di Schopenhauer, tutto come se dietro la realtà umana razionale, cosciente, ci fosse un'altra realtà più profonda. Questo è un pensiero che è stato messo in crisi dall'arte. A un certo momento, quindi, insomma, si paventava questa presenza dell'inconscio. Fino all'Ottocento, inizio Novecento, c'è qui magari gente che datela per assodata se qualcuno questa storia non la sa, ma è così. Forse Giulio me la può confermare. Rispetto a questo movimento generale, c'è stato chi, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ha detto: lo so io che cos'è questo inconscio, lo so io qual è la realtà più profonda degli esseri umani oltre la ragione. È stato Freud, che, come sappiamo, tra l'altro abbastanza contraddittoriamente, perché ha definito, ed è tuttora detto lo scopritore dell'inconscio, quando poi il nucleo fondamentale dell'inconscio per Freud è inconoscibile, per cui insomma è un po' contraddittoria questa conoscenza di un inconscio inconoscibile. Ma quello che lui ha detto era inconoscibile, però ha sostenuto che questo inconscio è di fondo, polimorfo, perverso, che è un caos originario dentro gli esseri umani, che gli esseri umani devono perennemente controllare con l'identificazione con il padre, e comunque stai sempre a rischio che questo disordine originario che abbiamo dentro di noi esca fuori. Scusate, ma sulla base dell'analisi del pensiero che ha fatto Carlo Galli, ma a voi questo vi sembra un pensiero di sinistra o un pensiero di destra? Pensare che questo discorso del disordine originario perennemente da controllare e in lotta, a me questo sembra un pensiero di destra, sulla base di quella, dove almeno, come stiamo parlando di fammi finire e poi figurati. Allora, dopo le due guerre mondiali, soprattutto nella seconda metà del Novecento, la sinistra, preso atto, anche Marx stava all'interno dello stesso paradigma, voglio dire, di scissione e di identità umana razionale. L'uomo non era più razionale, era l'abhorrence, ma comunque stava all'interno dello stesso paradigma. Paradigma che è andato in crisi. La sinistra, nella seconda metà del Novecento, ha sposato il pensiero di Freud, ha cercato, come posso dire, di andare oltre, almeno molta sinistra, ha trovato questa realtà umana più profonda, ha scoperto che c'era una realtà umana più profonda, ma era quella che Freud aveva detto. Secondo me, a mio parere, l'identità di sinistra si è cominciata a perdere lì, perché un pensiero di sinistra che era basato su questa idea di possibilità di sviluppo progressivo del bene si arena, perché non c'è più questo seme. Per gli illuministi questo seme era razionale, non era definito, ma c'era, si poteva sviluppare, si poteva andare oltre. Adesso il seme di bene non c'è più originario, la realtà dell'essere umano più profonda è l'inconscio, non è la ragione, però questo inconscio c'ha questo disordine. Attualmente in Francia si sta scatenando questa polemica enorme, qui abbiamo giornalisti che ne hanno parlato, Carlo Left ne ha parlato, si sta scatenando una polemica enorme con il filosofo Michel Onfray, che ha fatto l'ennesimo, diciamo, libro contro Freud. Ripete cose che sono risapute, da tempo prima, ma c'è una cosa che dice particolarmente in luce qualcosa che si sapeva meno, qualcosa si sapeva ma non tanto, determinate collusioni di Freud sia con il fascismo, come Mussolini, eroe della cultura, sia con il nazismo, l'istituto di psicanalisi messo in piedi da Goering, eccetera. e si sta scatenando nei maîtres à penser di Francia un'alzata di scudi che non finisce più. Ma sinceramente, vista da questo punto di vista, a me non sembra, a me certe collusioni mi sembrano perfettamente coerenti con un pensiero di destra e non con un... Per cui secondo me questo discorso, l'umanesimo della ragione, cioè l'uomo razionale, l'idea di identità di uomo come uomo razionale, potrei dire di più ma poi magari ci spieghiamo meglio, l'uomo, l'identità umana come ragione è entrata in crisi storicamente, non l'ha messa in crisi la politica, no, è entrata in crisi storicamente tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Il pensiero di sinistra, per cercare questa nuova realtà più profonda, ha sposato il pensiero di Freud, si è inquinato alla base, cioè ha perso la sua identità, e da questa perdita di identità deriva anche una perdita di identità, dell'idea di democrazia che il pensiero delle sinistre vario porta avanti. Ma non è qua la sinistra di per sé democratica? No, non dico... No, ti dico, adesso, per, non, assolutamente, cioè, ti dico che... Per, chiamare socialismo reale? Lo sai. No, ma perché il pensiero interessante di Galli è che fa risalire questo, diciamo, come ti posso dire, questo nucleo di pensiero di sinistra a questo discorso dello sviluppo democratico. Vabbè, ok. Io penso che, visto così, sia anche una possibilità, tra virgolette, di unire tutta una serie di pensieri apparentemente diversi da loro, ma in verità profondamente uniti. Cioè il pensiero di Emma come un pensiero attuale di una persona di sinistra che profondamente mira a questo sviluppo dell'essere umano, a questa possibilità di superare la sopraffazione, il dominio e la violenza, a me piace considerare questa di unione. Ma se invece il pensiero di destra è fondato, scusate, ma i continui rigurgiti adesso, anche come ce li spieghiamo i continui rigurgiti di cose che sembrano in passato scomparse? Sempre in Italia, guarda, ed è un'altra discussione. Ho capito, d'accordo, va bene. Comunque, concludo solo di... No, concludo, capisco, concludo. Prendiamola allora come provocazione. Non è una provocazione la mia, io sono abbastanza convinta, però insomma è una ricerca recente e devo svilupparla. Però concludo dicendo questo: ammesso che quel discorso che ho fatto abbia un minimo di senso, questo può... ecco, allora vi ringrazio già se mi riconoscete il minimo di senso. Questo significa che se il pensiero di sinistra, o più genericamente democratico, in Italia, rimaniamo fermi in Italia... Però insomma l'emergenza Emma di continui rigurgiti strani di razzismo non ci sono solo in Italia, pensiamo in Austria, pensiamo, no? Cioè, la messa in crisi dell'idea, diciamo, dell'uguaglianza non è solamente italiana. Comunque rimaniamo all'Italia, a questa penosa situazione nella quale ci troviamo ora, in cui la sinistra non riesce ad opporsi. A mio parere non riesce ad opporsi perché ha perso questa identità di base commistando questo pensiero, cercando di fronte alla crisi dell'identità umana come razionale, ha cercato una risposta, per così dire, sbagliata. Allora, se è entrata in crisi, secondo me quello che è fondamentale per un pensiero di sinistra o democratico, chiamatelo come volete, è proprio l'idea di ripartire da una costruzione di un nuovo umanesimo, perché c'è bisogno di questo, che non sia più fondato sulla scissione tra ragione e non ragione, ma su un'idea di identità umana che invece spunti sulla fusione e sulla trasformazione, perché questa trasformazione può essere la chiave per andare oltre il pensiero illuministico di sviluppo del bene degli esseri umani. Questo. No. Lo sforzo. Immagino lo sforzo di Livia è eccezionale, anche per tenerci un attimo. No, io su una cosa, con un paio di cose concordo, e mi riferisco all'ossessione che ha la destra per il disordine. Questo vale per tutta Europa, insomma, movimenti come Ordre et Tradition o Ordine Nuovo, Ordine Nero, cioè noi comunque questa ossessione per un nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine, c'è sempre stata nella destra estrema. Comunque questo è una cosa. L'altra cosa su cui concordo è magari che per questo nuovo pensiero bisognerebbe un po' spostarsi da quelli che sono i bisogni, cioè mettendo l'uomo al centro, quali sono spostare da quelli che sono i bisogni materiali dell'uomo e per cercare un po' di arrivare a quelle che sono le esigenze che invece pervadono, di cui ormai quest'uomo che vogliamo mettere al centro ha bisogno, insomma. Esigenze di cui ha bisogno, magari non è molto chiaro quello che volevo dire. Comunque, quello che è chiaro è che soddisfare i bisogni materiali, come la dottrina, insomma, di sinistra dei primi del Novecento, ormai non è più sufficiente a tenere insieme tutto questo. Adesso troviamola insieme questa via, perché insomma io volevo sentire un po' se c'è qualcuno del pubblico che è, o se Giulio vuole aggiungere qualcosa. Emma. No, solo tant'è vero che quando tu sei intervenuto tu hai detto che poi c'è il rigurgito eccetera eccetera, lo si vede in molti movimenti della destra estrema, calmi, perché allora riportando io non trovo ad esempio il partito conservatore finlandese o persino il partito conservatore inglese, io non li trovo affatto né non democratici, tanto per essere chiari, né che ne so, così come trovo alcuni elementi o partiti di sinistra, per esempio, che magari affronteranno una grave crisi economica, ma portata da mille cose, ma certamente non una crisi identitaria, penso alla Spagna, piuttosto che per esempio ad un partito socialista non dei più innovatori, ma comunque che quello greco. Per cui volevo solo attrarre l'attenzione sul fatto che intanto abbiamo tantissime destre e tantissime sinistre, e che quindi nella traduzione politica, non nel pensiero culturale, io non so se Freud è di destra o di sinistra, francamente, tantissimi tipi di destre, tantissime di sinistra, anche lì smettiamola anche di essere troppo eurocentrici, perché se intanto ci spostiamo ad un'analisi per esempio brasiliana, stiamo parlando ancora di un altro tipo di sinistra che non ha crisi identitaria, ma che anzi ha spostato sul piano dell'innovazione, sposando temi che addirittura erano ritenuti tradizionalmente di destra, per esempio. Allora, cioè, in queste categorie, per questo non mi ritrovo in questi schematismi categorici, e non è vero che destra vuol sempre dire razzismo, e non è altrettanto vero che sinistra vuol sempre dire stalinismo, ovviamente. Quindi più. Infine solo una parola, io credo che la situazione italiana sia così complicata, confusa, ma questa è l'analisi radicale che conoscete molto bene, ed è perché nel nostro paese da tanti tanti anni è venuta, si è erosa proprio il senso delle istituzioni e delle regole, con grandi connivenze e anche grandi complicità. Per cui, come dire, il caso Italia, come noi lo chiamiamo, e ovviamente molti non sono della nostra opinione, è poi quello che produce situazioni che vediamo, in cui non c'è un'istituzione che regge, ragazzi. Siamo arrivati a un punto tale che per via di leggi elettorali o quant'altro tu c'hai il Parlamento di nominati e va bene, che a sua volta elegge le autorità garanti che sono le figlie dei nominati. Ovviamente, no? Se tu l'inizio è nominato, tutto quello che fa dopo ovviamente è di conseguenza. Non parliamo della situazione di come si eleggono i giudici della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della Magistratura, ma fino ad arrivare alle questioni catastrofiche di Rai 1, Rai 2, Rai 3, insomma, allora, noi abbiamo creato una specie di calderone in cui davvero si è perso un po' il senso delle istituzioni e di chi fa che cosa, in cui appunto la sinistra da una parte o la destra dall'altra sono completamente diverse, diciamo, e hanno perso abbastanza la trebisonda, per cui c'è una necessità di ricercarsi in qualche modo, ma è molto tipico di situazione italiana, quindi anche lì stiamo attenti a non generalizzare troppo, anche se la peste italiana a mio avviso sta contaminando appunto l'Europa non da poco, nel senso che non ci sono più divisioni di poteri, chi fa che cosa. Questo è il dramma accelerato della posizione italiana. Infine, solo una frase unica: e se in tutto questo, appunto, tu dici l'identità umana, ma e se di fronte a tutto questo una delle possibili vie di riconciliazione e di rilancio fosse riprendere, vecchia tesi, l'individuo e la persona al centro dell'organizzazione politica invece di le masse cattoliche, le masse quell'altro, eccetera eccetera, forse mai che una via di uscita è quella di rimettere l'individuo al centro dell'organizzazione politica coi suoi diritti e coi suoi doveri, si chiamano doveri, senza i quali non ci sono i diritti. Lo dico non per provocazione, ma perché ci credo profondamente. Io un'unica cosa rispetto, mi aggancio alla conclusione, credo sia proprio questo il punto. Un aspetto molto interessante di questo libro è appunto mettere in crisi, come dicevo all'inizio, l'impostazione logica occidentale, che definisce le identità in un modo che oggi gli studi scientifici, il progresso smentiscono, e per questo poi alla fine è entrato in crisi questo modello. E una delle cose, appunto, uno dei frutti di questa impostazione della logica occidentale è la definizione dell'identità per identità collettive contrapposte. In questo la stessa Chiesa Cattolica, che diciamo aveva come presupposto invece la persona al centro del messaggio, è, come dire, caduta nello stesso schematismo logico e diventata un'identificazione di identità collettiva, non personale. E quindi, secondo me, è proprio la chiave di volta è in questo, come coniugare, e tradotto anche un po' in termini pratici. Io mi ricordo una vedevo su internet Sandro Pertini in uno dei suoi video, che diceva, a mio modo di vedere, nella democrazia va sviluppata la libertà tanto quanto la giustizia sociale, e vanno di pari passo. Non c'è giustizia sociale senza libertà, non c'è libertà senza giustizia sociale. E diceva, qualora a me proponessero la più ardita delle riforme sociali senza libertà, la rifiuterei. Perché un tratto caratteristico della democrazia è quello, e diceva sempre lui, citando Voltaire, mi batto fino al prezzo della mia vita affinché tu, che hai un pensiero diverso dal mio, possa esprimerlo. No? Poi Amartya Sen ha fatto un passo in più. Eh sì, appunto. No, io prendo quello di Pertini come base per dire che nel quadro delle regole democratiche, che definiscono solo un'apertura di campo, non definiscono le politiche di chi agisce all'interno delle regole democratiche. Oggi, a mio modo di vedere, noi dobbiamo difendere A, il quadro delle regole democratiche, il fatto che ci sia la crisi delle istituzioni mette in pericolo il quadro stesso delle regole democratiche, B, scendere poi in una differenza di organizzazione dello Stato, quindi nel merito, e passa per l'architettura istituzionale, la politica economica, sociale che voglia fare, e lì un'alternanza tra differenti impostazioni può essere pure sana al mantenimento delle regole democratiche, e quindi in questo senso la perdita di egemonia è un concetto non culturale ma politica, è un concetto che deve essere una conquista sia per la destra che per la sinistra, perché sennò vanno a rischio, come abbiamo visto quando si è persa le stesse regole democratiche. E C, e vado a chiudere veramente su quello che dicevi tu all'inizio, non è, e per questo quindi in questo senso oggi si definiscono, guardando astoricamente, cioè togliendosi dalle coordinate storiche e anche geografiche che poi differenziano invece le destre e le sinistre, cioè di un movimento progressista globale, di un movimento conservatore globale, dove si può ritrovare un senso? Nell'ambito di questo che ti ho detto. Perché il tema dell'ordine e del disordine, chiudo davvero, a mio modo di vedere, attenzione a non confondere la bontà originaria, l'ordine diciamo naturale, con come concetti positivi e il disordine che è all'interno dell'uomo di per sé come negativo, perché quella famosa bontà e quel famoso ordine naturale erano il presupposto di tutte le religioni che poi hanno portato a impostazioni societarie totalitaristiche, mentre il disordine inteso come ricchezza interiore, diversità, sviluppo di una persona, il tuo libro lo dice bene, anche dentro se stessa, che impara come conoscersi con lo sviluppo anche della biologia, della chimica e delle scienze, in questo ritrova un confronto aperto, non chiudendosi in se stessa, è una ricchezza. Quindi può essere anche questo uno dei presupposti del progressismo globale. Rapidamente poi darei volentieri la parola. Sì, volentieri, volentierissimo, ma più che la domanda speravo che proprio parlasse qualcosa. Volevo un attimo riprendere, è chiaro che allora la situazione italiana in particolare, diceva Emma, appunto, e qui quello che diciamo, quello di cui stavo parlando è soprattutto l'impossibilità di un pensiero democratico, capito? Che io considero democratico e di sinistra, a prescindere, ma di rispondere, va bene, come va, ma lasciami fare la mia separazione. Comunque, sempre stata di sinistra, è difficile. Cambio, no, ovviamente, però ci credo in quello che sto dicendo. Quantomeno le persone di sinistra si sono sempre sentite così, ai limiti sono state ingannate, per esempio, che ne so, da un PC che si diceva ateo e poi era popolato per la maggior parte da cattolici. Però, insomma, di fatto la persona di sinistra si sentiva in questo modo, ci si sente tuttora. È senz'altro adesso molto più aperta di prima, insomma, al confronto, però è proprio di questa crisi, di questa identità che ha minato, cioè l'impossibilità di rispondere a derive autoritarie di destra, secondo me deriva da una crisi di identità, di un pensiero politico che io, d'accordo, bene, d'accordo. L'individuo al centro, benissimo Emma, benissimo, non avrei intitolato un libro L'identità umana, ma quale individuo è il punto? L'individuo, quale concezione dell'individuo? Una concezione dell'individuo che pensa che, demolita l'identità umana come ragione, sotto, noi abbiamo il mostro da controllare e quindi comunque alla fin fine il peccato originale, voglio dire, di biblica memoria, oppure un essere umano che invece, tu ti parli di disordine, a me un termine che diciamo non piace molto, mi piace pensare allo sviluppo progressivo di cose che ancora non sono state realizzate e si realizzeranno al divenire, non certo un pensiero totalitario, assolutamente, cioè un'idea di essere umano che non va perennemente controllato secondo la concezione freudiana, questo io volevo metterti in evidenza, freudiana, ti dicevo, che la sinistra ha sposato, la sinistra italiana ha sposato, questo è un dato di fatto. È questo, diciamo, la sinistra, beh, almeno quantomeno la cultura della sinistra italiana, qualsiasi giornale apriamo di sinistra. Ma guarda, il problema è che la sinistra italiana, così come la destra cattolica, non ha proprio mai pensato di mettere l'individuo al centro dell'organizzazione sociale, ha pensato alle masse, ha pensato questo. Sì, allora è successo qua, ho capito, allora quest'ordine, allora benissimo, sono felicissima di queste cose che mi dite perché sono novella su queste cose, perdonatemi lo sforzo, insomma, ma allora non sarà un'idea di individuo singolo, sarà un'idea di collettività, ma comunque alla base di questa idea di collettività, a partire diciamo dallo sposare un pensiero freudiano sull'inconscio, quello è, cioè un discorso di cosa da reprimere, vabbè. No, ti giuro, vabbè, comunque finisco questo, volevo solo, tu parlando di questo discorso di coniugare appunto la libertà con l'uguaglianza, secondo me questo è un tema veramente fondamentale su cui dobbiamo, è questo il punto, cioè fino adesso ho capito, pensieri democratici, liberali e i pensieri democratici di sinistra si sono scontrati su questo punto, non sono riusciti a trovare, secondo me, una nuova idea appunto di essere umano fatto in un altro modo può consentire, partendo dall'identità, perché nessuna libertà è possibile in assenza di un'identità umana profonda, questo io penso. Quindi questo è solo l'apertura, è un discorso enorme, forse è il discorso cardine, coniugare la libertà con l'uguaglianza, o almeno tentare. Vabbè, io secondo me molte cose Livia le ha perfettamente capite da sola, insomma, poi c'è sempre un problema, un po' di linguaggio, un po' di traduzione politica. Devo dire che la ricaduta velocissima in Italia ce l'hai un po' regalata tu, no? Quando parli di disparità e non di diversità, di tolleranza e non di rispetto, secondo me proprio ci fai cadere in Italia in questo momento così tragico. In realtà io l'ho detto nell'altra presentazione, ci sono delle cose preziosissime del libro, no? Per esempio, che si ricollega molto al tuo discorso, scoprire che c'era un tempo in cui non esisteva il bene e il male, in cui l'atto sessuale era slegato dalla procreazione, in cui non esisteva il peccato, non esisteva il giudizio sull'altra persona, no? Allora capire veramente i danni che ha fatto il cristianesimo, perché io capisco benissimo la richiesta che ti fa Emma, cioè supera le categorie di destra e sinistra, che forse ahimè è doloroso, ma occorre farlo, perché non sono più quelle giuste. Al limite si può parlare di danni che ha fatto una certa politica di certe destre, o anche il cristianesimo sulla storia del pensiero umano, perché secondo me quella è la matrice forse più pericolosa, quello che ha criminalizzato le dimensioni inconsce, quello che ha prodotto le streghe, cioè tutto lo sai, tutto quello che ha colpevolizzato l'irrazionale, il rapporto sessuale slegato dalla procreazione, il desiderio, la sessualità. La criminalizzazione che ha operato il cristianesimo è forse quello, e devo dire che però, e non solo in Italia, una certa destra ha preso tanto da quell'ideologia, e allora forse di questo. Però ecco, secondo me al di là del dibattito, nel tuo libro c'è tutto, c'è veramente tutto, ed è vero che non è un libro facile, ma la prima cosa che ho detto a Livia è regalalo, perché invece si capisce bene, non è facile, ma cavalca nei secoli il libro, no? E la scrittura è molto molto fluida, per cui secondo me, no, insomma, coraggiosissima, ecco, coraggiosissima scrittura, e decisamente utile alla politica, che forse troppo spesso diventa amministrazione, un po' povera, troppo povera, almeno in Italia, diciamo così. Detto questo, secondo me noi dobbiamo fare un grosso sforzo di separarci da certe categorie, destra e sinistra, anche perché se è vero che ha cercato l'uguaglianza, come dicevi tu, ahimè ha calpestato la libertà, tutta un'ideologia, no? E questo è gravissimo, forse ancora più grave di ciò che ha fatto la destra. La resistenza in qualche modo la sinistra nel nostro paese ai diritti civili nasce esattamente dal fatto che l'individuo non era al centro della costruzione politica, per cui la moralità comune, tutto quello che dice, ed è stata una resistenza molto lunga, non solo politichese, politicante, perché la DC, l'articolo 7, per struttura, secondo me, mentale, che, esattamente, che veniva da... Io credo che oggi il grande salto è quello appunto di rimettere l'individuo e non so se è quello inconscio, tormentato, quello buono, eccetera, anzi forse dovremmo pensare ad una sinistra che sa accettare quello buono, quello cattivo, ma è l'individuo, la persona intorno alla quale bisogna costruire l'organizzazione politica, non l'inverso, perché mi pare che stiamo facendo l'inverso. Poi mi scuserete, mi andrei a studiare. Fammi solamente rispondere un attimo a Ilaria, che ha citato questa storia della politica che decade come amministrazione. Ti ringrazio di avermelo ricordato, perché se ci pensiamo, pensando anche a quello che ha detto Gianluca prima, della differenza tra bisogni e esigenze, questa politica che perde qualcosa, allora cerchiamo di capire che in quale altro modo l'ha perso, sono finite le categorie, d'accordo, ma qualcosa abbiamo perso, e questo dobbiamo... questo discorso di politica che decade alla sola amministrazione riflette, se vogliamo, in qualche modo quel discorso di scissione dell'individuo tra bisogni materiali ed esigenze di altro genere. Quindi questo è un nesso importantissimo. Per superare la politica come amministrazione c'è l'idea, ci deve anche essere una nuova idea di individuo da rimettere al centro, non più scisso, capito? Ma laddove la politica si deve occupare anche dello sviluppo, del libero sviluppo, non che lo deve imporre come regimi comunisti, ma del libero sviluppo delle esigenze, non solo. Per esempio automaticamente laica. Esatto. Altro cardine fondamentale, altro cardine fondamentale. Grazie. Perfetto, grazie, grazie. Puro, mettilo come ti pare, se tu lo rimetti al centro la politica diventa automaticamente laica perché non può fare diversamente. Salutiamo Emma. Salutiamo Emma e ci deve lasciare. A noi le presentazioni ci piacciono così, un po' movimentate, un po' così dibattute, non ci prepariamo niente, quindi le cose ci vengono lì per lì. Quindi con la partecipazione di più persone, se volete qualcuno volesse fare qualche domanda, le cose continueranno. Ciao Emma, ci salutiamo. Sì.